La teoria delle stringhe è nata... È democratico perché... Per OGM si intende... L'effetto placebo... Da Baikonur. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 12 dicembre 2009 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. L'acqua, come sappiamo, è un elemento fondamentale. L'uomo è fatto dall'80% di acqua, la nostra cara terra è coperta per la maggior parte dall'acqua e inoltre l'acqua è un elemento primario per la comparsa della vita. Ma quest'oggi non vogliamo parlare di acqua terrestre e delle sue relazioni con la comparsa della vita, bensì di acqua extraterrestre, lunare per la precisione. E commenteremo quindi la notizia di qualche settimana fa ricavata dai dati della sonda L-Cross. Lo faremo insieme al professor Enrico Flamini, planetologo dell'Agenzia Spaziale Italiana. Buongiorno professor Flamini. Buongiorno a voi. Professor Flamini, in 100 parole, che cosa significa in parole semplici aver trovato l'acqua sulla Luna? Intanto dobbiamo dire che quando parliamo di acqua parliamo di molecole di H2O o di acqua ghiacciata, non di acqua liquida. Questo è il primo elemento. E averla trovata significa aver convalidato alcune teorie che vedevano nel passato dire che la Luna è stata bombardata anche da comete e quindi che hanno portato acqua sulla Luna stessa e deve essere rimasta intrappolata nella zona lunare e che forse durante la formazione della Luna ci potrebbe essere rimasta un po' di acqua e questo però è un decisamente controverso rispetto a un'altra teoria che invece dice che la Luna nel momento in cui si è formata era completamente secca, dry. Benissimo professor Flamini, a questo punto ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio e poi cominceremo a commentare i dati della sonda L-Cross. Bentornati in studio cari radioascoltatori, siamo ancora in compagnia col professor Enrico Flamini dell'Agenzia Spaziale Italiana e con lui proveremo a parlare del ritrovamento di acqua ghiacciata sulla Luna. Prima di partire però, torniamo un attimo a quel 13 novembre 2009. In quel giorno in streaming si sentiva Anthony Colaprete, capo missione Ele Cross, dire queste parole. One month ago we made an impact and we saw some squiggly lines and we've been working about 28 hours a day, a large team to understand what those mean. And so I'm here today to tell you that indeed, yes, we found water. And we didn't find just a little bit, we found a significant amount. If you remember, about a month ago, we were talking about teaspoons going to glasses over football fields. Well, now I can say today that in the 20 to 30 meters. In realtà, professor Flamini, come ci dicevamo fuori onda, questa non è la prima volta che si parla di acqua sulla Luna. Addirittura qualche mese fa ne parlò la prestigiosa rivista Nature. Allora, su Nature del mese scorso. È apparso un articolo molto ben circostanziato dal punto di vista scientifico che, utilizzando i dati presi dallo spettrometro della missione Cassini nel flyby della Luna del 97, quindi ormai di molti anni fa, ma dati molto buoni e di alta attendibilità, si vede che sulla Luna, complessivamente sulla Luna c'è una certa percentuale di acqua dell'ordine di 10-20 parti per milione, comunque molto ma molto più alta di quanto si potesse immaginare prima. Poi c'è stato questo secondo annuncio che è derivato dall'impatto della parte, diciamo, che doveva colpire la Luna, della missione Ele Cross americana, che è andata a colpire uno dei crateri del polo sud della Luna e in questo cratere perennemente al buio, dove si pensava che potessero essere rimaste immagazzinate, congelate tracce di acqua, sembra che effettivamente dalle polveri emesse dopo l'impatto, a seguito dell'impatto di questo meteorite artificiale, ci sia un'abbondanza di acqua maggiore che sul resto della Luna. Professore, la interrompo un attimo. Perché la Luna, secondo tutte le previsioni, dovrebbe avere dell'acqua? Allora, dipende essenzialmente dalle teorie della formazione, su come la Luna si è formata. Prima delle missioni Viking, l'ipotesi era che la Luna si fosse formata, come gli altri corpi del Sistema Solare, per accrescimento dovuto alla coalescenza, man mano all'accumularsi di asteroidi di polveri e altro materiale che era nell'orbita più o meno conflanare a quella della Terra, così come si era formata la Terra. Questo avrebbe avuto come conseguenza che, così come sulla Terra, una certa quantità di acqua si doveva essere formata, coagulata insieme alla formazione della Luna stessa. Dopo che arrivarono le missioni Apollo negli anni 60, fine degli anni 60, dalle missioni Apollo si vide che i campioni della Luna avevano una scarsissima quantità di acqua, quasi nulla, a parte alcune prove fatte in alcuni laboratori, compreso in Italia. Qui sembrava che qualcosa di acqua ci fosse, ma parliamo sempre di una parte, due parti per milione. Quindi, a seguito delle missioni Apollo, si disse: bene, la Luna evidentemente si è formata in un altro modo, visto che ha una composizione molto simile a quella della sola crosta terrestre, probabilmente si è formata in seguito a un mega impatto sulla crosta terrestre di un oggetto più o meno delle dimensioni di Marte, che poi ha staccato dalla crosta terrestre una parte del materiale fuso, che poi si è ricondensato a formare la Luna. Ovviamente, essendo materiale fuso trappato per impatto, di acqua non doveva averne nulla. Questa era evidente ed era consistente con i dati dell'Apollo. Questi due dati, quello di cui ho citato prima, preso con la missione Cassini, e quest'altro acquisito dalla missione Ele Cross americana, sembrano in parte confutare quella teoria, oppure l'altra ragione per cui abbiamo acqua sulla Luna, quella misurata, è che la Luna ha subito da sempre un bombardamento di comete che hanno lasciato parte del loro carico d'acqua, le comete essenzialmente sono delle palle di ghiaccio sporco, sulla superficie della Luna. Professore, come facciamo ad accorgerci se quell'acqua è di origine cometaria oppure è di origine lunare? Diciamo, per quanto riguarda la l'acqua che è stata osservata in alcune parti per milione, come dicevo prima, quando parlo di 10 parti per milione, tanto per essere chiari, dico che per avere 10 metri cubi di acqua ce ne vogliono 1 milione di suolo lunare da utilizzare e da distillare, quindi è acqua di fatto poco utilizzabile per scopi di qualsiasi genere pratici. E questa è l'acqua che è più o meno diffusa dappertutto. L'acqua invece sembra essere più concentrata e quindi in maggior quantità nei crateri, potrebbe essere, diciamo, un'acqua più facile da utilizzare, ammesso che ce ne sia effettivamente in notevole quantità. Per quanto poi riusciamo a capire, l'acqua è H2O, dovremmo analizzare quelli che sono gli eventuali materiali disciolti nell'acqua, ma qui mi riferisco soltanto alla parte dell'acqua eventualmente intrappolata nei crateri del Polo Sud, in quanto, diciamo, in quel ghiaccio potrebbero estimarsi anche alcuni dei composti che sembra siano presenti anche sulle comete, però potrebbero anche essere lì dopo. Diciamo, non c'è veramente un modo, una volta presa l'acqua, che sia, diciamo, preso il ghiaccio eventualmente liquefatto, stabilire se è di origine cometaria o no, a meno che non troviamo alcuni proprio composti unici delle comete, e in quel caso, diciamo, si potrebbe rafforzare questa ipotesi. La vedo però molto difficile in ogni caso. Senta, professor Flamini, davanti a me in questo momento ho il sito della NASA, in particolar modo il sito della sonda Lacross, che poi è stata quella che ha rilevato l'acqua. Ne avevamo già accennato prima, ma esattamente che tipo di missione era la missione Lacross e quali strumenti aveva particolari per poter rilevare l'acqua? È una missione molto interessante come concetto, che sostanzialmente vede un satellite, diciamo, passare in orbita piuttosto bassa sulla Luna e quindi fare delle analisi, capace di fare analisi di polvere che eventualmente circonda la Luna, e un'altra parte del lanciatore, del razzo che ha portato la sonda intorno alla Luna, seguire la sonda stessa e fino a diventare un proiettile che poi ha colpito appunto il Polo Sud. Mentre il proiettile colpiva e alzava un'enorme colonna di polvere e particelle di ghiaccio, come sembra che sia successo, la sonda, il satellite, è passato nella colonna stessa e quindi ha fatto le analisi dei materiali sollevati. Perfetto, professor Flamini, a questo punto ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio e poi continueremo questa nostra interessante chiacchierata. Searching for a hidden destination. E bentornati in studio, cari redascoltatori, in questa puntata in cui stiamo provando ad analizzare nel dettaglio la scoperta della molecola dell'acqua sulla Luna. Abbiamo analizzato la scoperta di qualche settimana fa, abbiamo parlato della sonda Elecross come composta, e a questo punto molto c'è da dire sulla Luna come avamposto spaziale, perché in fondo tutto ruota sul ruolo che potrebbe avere la Luna nel futuro dell'esplorazione spaziale. Sì, no, hai perfettamente ragione. Infatti, da una parte diciamo c'è l'interesse scientifico nel cercare di dare una spiegazione credibile, completa, di come si è formata, di come si è evoluta la Luna e quindi di conseguenza anche in parte la Terra, perché poi i due corpi sono fortemente accoppiati. L'altra invece è esattamente lo sfruttamento. Ovviamente avere diciamo delle riserve di acqua accessibili e significative in termini di quantità vuol dire dare la possibilità a eventuali colonie umane di utilizzarla e quindi di avere un elemento fondamentale per la nostra vita, e che è costosissimo portare dalla Terra, perché ogni chilo di acqua è un costo di circa 10-20 mila euro in termini di costo che si paga per lanciarlo, cioè dividendo il costo di un razzo per chilo più o meno viene quello, quindi se si trova sul luogo tanto di guadagnato, e poi perché consente a quel punto di pensare effettivamente a colonie umane di lungo. Questo è il motivo diciamo per cui di fatto c'è tanto interesse. Delle cose che dicevo prima, ovviamente l'acqua diffusa su tutta la superficie non ha molta rilevanza perché è troppo poca rispetto alla quantità di materiale che andrebbe poi utilizzato per cavarla. L'eventuale acqua che dovesse essere presente, se confermata l'annuncio della NASA in maniera significativa nei crateri, potrebbe essere effettivamente una riserva di acqua per un'eventuale colonia umana. Senta, quando parla di colonie umane ci stiamo quasi affacciando nella fantascienza, in cui l'acqua potrebbe essere un essenziale serbatoio da cui estrarre ossigeno da immettere all'interno di cupole spaziali. Immaginiamo già questi romanzi di fantascienza tipo Cronache marziane, in cui c'erano proprio delle cupole. Acqua significa idrogeno e ossigeno, significa acqua da bere, significa ossigeno per respirare, significa idrogeno per fare propellenti o combustibili. E significa molte cose l'acqua, e ovviamente stiamo parlando sì un po' di fantascienza, ci stiamo affacciando a quelle ipotesi che sono state più o meno disegnate negli anni 60 tra i romanzi di Robert Heinlein o di Arthur C. Clarke o di 2001 e così via. Stiamo parlando di la possibilità di avere delle colonie umane, sempre diciamo con grosse difficoltà, che vivano magari in grotte nei cosiddetti lava tubes, ovvero nei tubi cavi nelle lave lunari, e quindi a riparo della radiazione, che sfruttino in buona parte delle risorse locali. Senta professore, il prossimo step, quindi meglio il prossimo livello dell'esplorazione spaziale, non è certo quello di tornare sulla Luna, bensì quello di arrivare verso Marte. Che importanza potrebbe avere un avamposto lunare per dirigerci verso il pianeta rosso? Ma non è essenziale. Allora, l'avamposto sulla Luna ha una validità di per sé che può essere tipo strategico, può essere tipo di utilizzazione di risorse locali. Andare sulla Luna per poi partire dalla Luna verso Marte dal punto di vista strettamente energetico è abbastanza sciocco, nel senso che si perde molta energia per lasciare la gravità della Terra, poi si atterra sulla Luna e si deve di nuovo perdere energia per sganciarsi dalla gravità della Luna per andare su Marte. Quindi diciamo non c'è granché di guadagno. Per andare su Marte, diciamo, dal punto di vista strettamente di progettazione ingegneristica di una missione, è molto più logico partire eventualmente dall'orbita della Terra o dalla Terra stessa per andare su Marte. Però sulla Luna, soprattutto se si riuscisse a fare una colonia di lungo periodo, potremmo imparare molto nella capacità di vivere in maniera autonoma su un altro corpo che non è la Terra, e quindi progettare una missione umana verso Marte, che significa essere del tutto scollegati dal nostro pianeta natale per periodi molto lunghi, con una serie di problemi non banali che vanno da quello psicologico a quello medico in caso di problemi di salute, a quello del cibo e della sopravvivenza. Professor Flamini, siamo oramai in conclusione di trasmissione e quindi arriviamo verso l'ultima domanda. In realtà, come abbiamo già detto, non è la prima volta che si parla di acqua sulla Luna. Se ne parlò addirittura nel 97 con i dati della sonda Clementine, che sembrava aver trovato addirittura del ghiaccio sulla Luna. Ora, la domanda è questa: cosa hanno di differente questi dati dai dati delle sonde passate? Cioè, cosa c'è di differente oggi rispetto al passato? Diciamo, nel passato, a seguito delle missioni Apollo, alcuni dei campioni che furono analizzati in effetti rivelarono o mostrarono presenze di tracce d'acqua. Ricordo anche dei campioni che arrivarono all'Università di Roma per il 69, il 70, il 71, furono, diciamo, trattati e si liberò un po' di ossigeno, un po' di acqua. Però già all'epoca su quei campioni c'era un dubbio di una possibile contaminazione dovuta all'esposizione ad ambiente terrestre dei campioni dopo che erano stati riportati giù dalla Luna. E quindi rimase sempre il dubbio che quelle misure non fossero del tutto attendibili. Le misure che sono state fatte, prima quella appunto con la sonda Cassini e poi quest'altra, sono invece misure dal punto di vista strumentale, la prima assolutamente ineccepibile e molto ben quantificata e dal punto di vista scientifico assolutamente certificata. La seconda, adesso aspettiamo appunto di vedere i numeri e i dati reali che la NASA ha tirato fuori, però l'annuncio è stato molto molto interessante. Sono misure in cui è difficile pensare a un'alterazione dovuta all'ambiente terrestre. E quindi sono misure un po' più attendibili rispetto a quelle del passato. Professore, la ringrazio per la pazienza con cui ha voluto rispondere alle nostre domande. Cacciafotone si conclude qui, per il 2009 e ricominceremo ovviamente a gennaio del 2010. Nella prossima puntata ci sarà un po' il The Best Of sul meglio e sul peggio di Cacciafotone andato in onda fino ad ora. Ci sentiamo quindi a questo punto a gennaio. Stessa ora, stessa radio e stesso fotone e, come al solito, l'augurio di una buona scienza a tutti. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.